America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Washington, Mario Platero. We are really excited by this event. We have many things to care about, but I think that myself and my staff, we are very particularly excited and happy. Avete sentito questo commento del nostro ambasciatore a Washington, Armando Varricchio, sulla cena di ieri sera in onore di Matteo Renzi, la cena che ha aperto questa due giorni di visita di Stato del nostro Presidente del Consiglio a Washington. Varricchio dice di essere emozionato per l'evento, ha dovuto organizzare molti dettagli, però sono tutti felici e entusiasti per il risultato. Ecco l'evento di cronaca di ieri: il nostro PM è arrivato, è andato subito in residenza, c'era una cena appunto organizzata dall'ambasciatore, vari personaggi politici americani, c'era anche qualche direttore di testata come John Micklethwaite, per esempio direttore di Bloomberg, ma anche manager come Fabrizio Freda, amministratore delegato di Estée Lauder. Ecco, la storia di Freda la trovo interessante perché sotto un certo punto di vista penso che nessuno di voi che mi ascoltate sappiate chi sia questo signore e perché sia lì. In realtà, pensate, ha avuto proprio in questi giorni un riconoscimento importante dalla Harvard Business Review, che è la rivista di Harvard University, la Business School di Harvard, in cui Freda è balzato al 27esimo posto nella classifica di quest'anno dei migliori amministratori delegati del mondo. Una classifica non banale, perché si parte con l'analisi di 985 manager, dopodiché si scelgono i migliori 100 e Freda, che ha settuplicato, pensate, il valore di Estée Lauder negli anni, è riuscito a passare in 3 anni dall'80esimo posto al 50esimo, adesso al 27esimo posto. Chi sono gli altri? Beh, per esempio al primo posto Lars Rebin Sorensen di Novo Nordics, Martin Sorrell secondo posto di WPP, Pablo Isla di Inditex al terzo posto, Bernard Arnault, che forse conoscete, il VMH al numero 7, Howard Schultz di Starbucks, primo degli americani al 14esimo posto, e così potrei continuare. Ci sono altri due italiani in questa classifica: Paolo Rocca di Tenaris, che è al 62esimo posto, e Vittorio Colao di Vodafone all'80esimo posto, ma a 4 punti di distanza da Jeff Bezos di Amazon.com. Ecco, cosa mi colpisce di questa classifica? Che il denominatore comune di questi manager italiani migliori nella graduatoria mondiale e che hanno tutti dovuto lasciare l'Italia per vivere e lavorare all'estero. Dunque, si può diventare i migliori all'estero, ma non in Italia. Devo dire che quest'ondata continua, abbiamo avuto esempi recenti, Mario Greco, per esempio, ex amministratore delegato delle Generali, è passato da Trieste a Zurigo, Alessandro Castellano, che ha fatto risultati brillantissimi alla SACE, come dire, si è sentito un po' stretto per nuovi assetti societari e ha deciso anche lui di lasciare l'Italia, si è trasferito a Londra proprio con la Zurich. Dunque, come dire, non ci sono problemi per le nostre università perché evidentemente siamo in grado di produrre persone molto brave, si producono buoni laureati, ma per le aziende, le istituzioni, per il sistema paese, beh, come dire, forse qualche problemino c'è, anche perché gran parte degli altri hanno fatto carriera e si sono affermati fra i migliori 100 direttamente a casa. Ecco, questo ci porta alla sfida del sistema paese, sistema Italia, che deve guardare in avanti, deve migliorare, deve essere molto più snello, e all'incontro politico con Barack Obama di oggi, fra poche ore. The real challenge for us is accept the challenge of change. Institutional reforms are exactly that. Give new energy to Italy because Italy could help and support Europe in a radical transformation. Ecco Renzi, questo è un audio che avevo raccolto dalla Clinton Global Initiative, quindi appena un mesetto fa, e devo dire è in tema sulla necessità del cambiamento, perché Renzi dice la vera sfida per l'Italia oggi è quella di accettare il cambiamento, e le riforme istituzionali hanno proprio questo valore, dare nuova energia all'Italia perché sia in grado di giocare un ruolo chiave nel futuro europeo. Ecco, questo argomento, l'Europa, il rapporto Italia-Stati Uniti anche vis-à-vis l'Europa, sarà al centro delle discussioni con Barack Obama, con un capitolo importante, perché l'economia giocherà un ruolo chiave con un doppio significato economico. Il primo è puramente macro: crescita, congiuntura, strozzature per le troppe regole, necessità di smuovere in tandem con Washington le rigidità di Bruxelles, che mettono sempre il bastone fra le ruote per mille cose. Il secondo però è anche finanziario, perché i grandi operatori di Wall Street li incontro ogni tanto a New York, da Larry Fink, tanto per citarne qualcuno, di BlackRock, a Jamie Dimon, di JP Morgan Chase, a centinaia di altri che hanno investito o pensano di investire nel nostro paese. Beh, come dire, stanno studiando ogni aspetto di questa visita per capire se fra Obama e Renzi ci sia davvero una lunghezza d'onda solida. Per cui interessano naturalmente questioni come la NATO, interventi in Libia, la tenuta del dialogo transatlantico con l'ondata di populismo nazionalista che vediamo in Europa. Interessa però a Wall Street anche molto come si porrà Obama sulla sfida di Matteo Renzi per il referendum. Ecco, qui vorrei aprire una parentesi, perché si dice: ah, guai a parlare di questo perché sennò è controproducente, non si deve dire che Wall Street è preoccupato o interessata. E invece no, si deve dire e come. Smettiamola col politically correctness in tutti i modi. Perché la realtà è molto chiara. Io ho parlato con queste persone di Wall Street e sono oggettivamente preoccupate se il risultato del referendum porterà un no. Perché? Perché a loro non importa niente delle nostre beghe politiche interne, a loro importa il risultato, e cioè l'Italia vuole le riforme di modo che magari i suoi grandi manager non debbano emigrare per essere inclusi nel novero dei 100 più importanti del mondo? O no, o queste riforme non le vuole. Ecco, questo è un punto chiave che secondo me resta molto interessante. Sappiamo come la pensa Obama, lui ritiene sempre che si debba guardare in avanti, il suo motto "Yes we can" non è solo semantico, e sappiamo anche che Barack Obama è per definizione uomo anti-establishment, ha preso più volte la distanza proprio da Wall Street, ha anche aiutato settori in difficoltà come quello automobilistico, investendo fondi governativi per il rilancio, fondi che sono stati poi ampiamente ripagati con tanto di interessi. Insomma, Obama è riuscito a mettere in piedi un circolo virtuoso con il ruolo dello Stato nel rilancio dell'economia, esattamente l'opposto di quello che capita in Europa, perché sappiamo con quali rigidità l'Europa pone freno, per esempio, a iniziative del nostro governo per rilanciare la crescita. Ecco, di questo io credo che Barack Obama dovrebbe parlare, soprattutto anche per l'apertura, per la conferma di quel dialogo con Roma come interlocutore privilegiato nei decenni, non soltanto con Renzi, che è in grado di aiutare a risolvere complessi problemi anche a livello europeo. E magari perché Bruxelles, pur nel rispetto dei vincoli di fondo che determinano l'appartenenza all'Europa, consenta alla fine l'introduzione di certe flessibilità adatte e necessarie per tempi eccezionali, come ama dire Barack Obama. Vabbè, altrimenti il sospetto potrebbe essere che le intrusioni nella politica interna italiana arrivino anche da Bruxelles. Da Washington è tutto. Al seguito del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!